come passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. :18:36, siamo qui, 800 24 00 24, è sempre il numero per chiamarci in diretta, sms 349 238 6666, la zanzara è radio24.it. andiamo subito a sentire il TG2. A Reggio Calabria il governo vara un maxi piano in 10 punti contro la criminalità, nasce l'agenzia per i beni sequestrati. Berlusconi, meno extracomunitari uguale meno criminali. La Confindustria contro il pizzo, la Marcegaglia dice da oggi obbligo per gli imprenditori vessati a sporgere denuncia, pena la sospensione o l'espulsione dall'associazione. Iniziata a Casa Micciola la demolizione della villetta abusiva attorno alla quale stanotte si sono accesi gli scontri con la polizia, circa 600 le abitazioni da abbattere. Milano domenica blocco del traffico da 17 giorni, superato il limite dell'inquinamento, ma è polemica sulle misure, non è solo colpa delle auto. Eccoci e sentiamo anche i primi titoli di Studio Aperto. Il governo a Reggio Calabria ha varato il piano sicurezza antimafia. Berlusconi, meno clandestini uguale meno forza in mano alla criminalità. Intanto Panorama rivela l'affare D'Addario, un complotto per tentare di incastrare il premier. Milano, lei era morta qualche mese fa stritolata in un divano letto, sembrava un incidente domestico. Oggi la svolta, arrestato il fidanzato, l'ha schiacciata lui lì dentro fino ad ucciderla. Trattavano gli anziani come animali, legati, seviziati, in condizioni igieniche disastrose. Chiuso un ospizio lager a Ascoli Piceno, 8 persone in manette, a Studio Aperto il racconto di un paziente. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Insomma, rispunta Adriano Celentano in un articolo questa mattina sul Corriere della Sera. All'aprile del 2008 aveva detto: non è certo difficile immaginare lo sfascio a cui andremmo incontro se dovesse vincere Silvio Berlusconi. E spesso Celentano è stato molto duro in vari interventi nei confronti del premier, per esempio sulla questione del nucleare e su altro ancora. Oggi però scrive sul Corriere: processo breve, mi basta che sia giusto. Ha ragione D'Alema, una leggina ad personam è l'unica strada per uscire dalla paralisi della giustizia. E poi fa tutto un ragionamento piuttosto fumoso, anche incomprensibile, sul processo, i cittadini, eccetera, eccetera. I soliti discorsi un po' filosofici, così dice Lentano. Ma tanto basta perché qualche politico italiano del centrodestra gli vada appresso, o pensi di andargli appresso, interpretando un Celentano pro-berlusconiano. Per esempio, oggi Maurizio Gasparri, sentite che aveva criticato spessissimo Celentano per le sue uscite, oggi invece insomma è estasiato. Celentano ha detto una cosa, diciamo, che raccoglie un sentimento popolare. Dice: c'è un attacco a Berlusconi, questo attacco blocca le riforme, dice sospendiamo i processi, cosa irrealizzabile. Non si può fare una legge così, non può esserci un'amnistia individuale. Quindi dice una cosa alla Celentano, questo, però pone il problema che c'è un accanimento giudiziario. Si discute su un tema, anche Celentano, che spara zero contro chiunque, quindi non è un berlusconiano, ha detto: ma insomma, con questo ce l'hanno un po' troppo. Quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa, quelle domeniche da solo. Scrive Celentano: è questo ciò che il povero cittadino ormai esausto chiede a tutte le forze politiche, l'opportunità di azzerare tutto a partire dai processi di Berlusconi e ricominciare da capo, affinché egli, non avendo più la spada dei giudici sulla sua testa, possa sedersi tranquillamente al tavolo con l'opposizione per fare la vera riforma sulla giustizia. Insomma, Celentano a favore di una leggina ad personam su Berlusconi. Questo è il punto. Io non lo esalto, ci mancherebbe altro, per carità. Vengo da te. A anzi penso che non serva a nulla l'intervento di Celentano, però mi sorprende che politici di centrodestra colgano l'occasione per far diventare Celentano una sorta di baluardo nelle discussioni. Sentite il tono quasi incredibile della Santanchè, vabbè, non ne parliamo, sentiamo. Io ho grande rispetto per Celentano, per la Ferilli, non solo perché sono professionisti eccellenti, ma Celentano credo che nel corso di qualche decennio abbia saputo interpretare molto bene la gente, il popolo. Credo che interessi solo al Partito Democratico questo tormentone della giustizia e la retroattività. Capisco che loro sarebbero d'accordo, perché poi la proposta era della Finocchiaro e molto più estesa rispetto a quella che oggi ha presentato il Partito delle Libertà. Quindi loro andrebbe benissimo la legge, però se non servisse al Presidente del Consiglio. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro. Celentano dunque nuovo leader per alcuni esponenti del centrodestra. Giustamente in una discussione pomeridiana, in una delle trasmissioni pomeridiane, Paola Concia, esponente del Partito Democratico, cosa dice? Dice: ma come? Voi avete attaccato un sacco di volte Celentano e adesso diventa il vostro idolo. Ricordo ai miei colleghi che Celentano è stato molto criticato da loro quando ha detto delle cose contro Berlusconi. No, è stato criticato, per cui adesso invece viene osannato. Mi puzza un po'. Io non lo so. Benissimo, perfettamente da Celentano. Il pomeriggio è troppo azzurro e lungo. Passiamo a una delle frasi del giorno, 800 24 00 24, ed è la frase su cui si discute in queste ore nella discussione, nel chiacchiericcio politico, e cioè la frase pronunciata da Berlusconi a Reggio Calabria. Dice Berlusconi: meno immigrati, meno criminalità. E naturalmente il PD lo attacca dicendo: non è così che si fa la politica sull'immigrazione, altri parlano di razzismo, eccetera eccetera. Berlusconi: la diminuzione degli extracomunitari significa anche meno forze che vanno ad ingrossare le schiere delle organizzazioni criminali. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare, ora mi annoio più di allora. Intanto sembra essersi risolto il giallo della Puglia. E come si è risolto? Si è risolto che non si ritira nessuno, non si ritira né Rocco Palese né Adriana Poli Bortone, e dunque restano due candidati contro Vendola, favorendo indubbiamente il candidato del Partito Democratico. Diciamo il candidato del Partito Democratico, il candidato che il Partito Democratico si è trovato insomma di fronte dopo le primarie. E allora sentiamo Berlusconi che, dopo aver rivolto un appello perché i due candidati si ritirassero, dice: Rocco Palese resta in campo. A Puglia noi abbiamo già un candidato che ha risposto, tra l'altro, con da gentiluomo vero all'appello che io ieri ho lanciato, facendo seguito alle pressioni che avevo ricevuto dal territorio. Andremo avanti e vinceremo tranquillamente per il governo della Regione Puglia. E insomma, giallo risolto, nel senso che c'è ancora qualche speranziella per Berlusconi, naturalmente, di riuscire a convergere sul nome della Poli Bortone. Casini, la politica dei forni, la famosa politica dei forni, sentite. Al momento la Poli Bortone è in campo con la sua forza politica, è in campo con la sua autonomia. La Poli Bortone può realizzare una convergenza tra noi e il PDL, perché non è né del PDL né dell'UDC. Siamo qui, 18:47, 800 24 00 24. Andiamo a Torino da Paolo. Paolo? Sì, pronto, mi sente? Sì, la sento, dica. Sì, buonasera. Allora, vorrei fare una premessa, prendetelo come un complimento: dopo le molte critiche i vostri filtri vanno un po' meglio. Non c'è nessun filtro, naturalmente, ci sono delle centraliniste molto brave che prendono le telefonate, si segnano gli argomenti e poi richiamano. Prendetelo tutti quanti come un complimento. Vabbè, prendiamo come un complimento, ma prima non c'era nessun problema. No, mi sono trovato varie volte a essere perché parlavo contro Berlusconi a essere non chiamato. Comunque, va bene. Non esiste una cosa va di bene. Questo tipo, è inesistente. È un argomento inesistente. È un parere mio, me lo non è un suo parere, è una sua impressione che io, appunto, smentisco nella maniera più assoluta che la selezione al centralino sia fatta per motivi politici. Insomma. Ognuno si fa una sua idea, no? E certo, infatti, lei si è fatta la sua idea. Io le dico che non c'è nessun filtro di tipo politico, caro Paolo. Certo. Niente, io volevo intervenire su Cilentano per il fatto che sono contrario al 100%. E tra l'altro volevo dire, mi sembra un po' fuori dal mondo questa cosa. Non c'è paese al mondo dove sia mai stata o sia mai stata pensata una legge, una leggina a personam per una persona solo perché è un potente pieno di soldi, non sta né in cielo né in terra. Sì, però Paolo, il punto non è quello che dice Celentano, perché adesso non ci mettiamo a discutere su una legge ad personam che peraltro non si può fare nei modi in cui lo dice Celentano fa tutto un altro discorso sulla giustizia e poi alla fine di questo suo intervento su Corriere della Sera dice ci vorrebbe una sorta di leggina ad personam senza nemmeno rendersi conto poi in realtà che una leggina ad personam di quel tipo che lui indica non si può fare. Per cui il problema non è quello che dice Celentano, è il fatto che alcuni politici di centrodestra oggi gli sono andati dietro, facendolo diventare, dopo averlo criticato più volte, una sorta di bandiera per le loro idee. Il punto è quello, adesso non ci ripetiamo a fare il discorso sulla legge ad personam, altrimenti non la finiamo più. Ma questi politici di destra che gli vanno dietro sempre comunque in ogni caso, cioè sono dappertutto pronti a difendere il loro padrone. Ma che c'entra il padrone adesso, Paolo? Sì. Il loro padrone. Non è così. Vabbè, il padrone, d'accordo, il padrone. Il loro padrone, sono sempre pronti a difenderlo in ogni trasmissione, sia radiofonica che televisiva. Vabbè. C'è sempre qualcuno come Pandi o Lupi o Castelli, tutti che lo difendono. Sono tutti dipendenti dal padrone, del padrone Berlusconi. Secondo me sì. Va bene, d'accordo Paolo, lei la sua idea se la tenga. Grazie. Angelo da Napoli, buonasera. Buonasera. Dica. Niente, questo volevo dire che è il secondo personaggio che si liscia il Premier dopo la signora Parietti. E che lei scusi Angelo, a me non mi pare proprio che Celentano lisci il pelo a Berlusconi, abbia pazienza. Fa tutto un ragionamento sulla giustizia e poi dice si potrebbe fare come dice D'Alema. Il ragionamento, l'argomento secondo me non c'entra. Lui si vuole lisciare. E per quale motivo? Che bisogno ha? Mi perdoni. Perché il lavoro è lui già è su tanti anni che alla Rai. Ma non dica stupidaggini, Angelo, non c'entra nulla il lavoro di Celentano con l'uscita di oggi di Celentano, non c'entra nulla. Io non sono qui a difendere Celentano perché non mi interessano i suoi interventi politici sul nucleare, su altre cose. Non mi sembrano particolarmente originali, però credo che sia genuino quello che viene da Celentano. Non è che dice delle cose per delle convenienze politiche o perché lavora poco o perché non lavora, cosa che non so peraltro. Ah, quello della politica, lui a suo tempo ha fatto le canzoni del cemento e tutti i resti appresso, ma adesso il secondo me è, per carità. Va bene, già ho capito quello che il prossimo contratto ho capito, ma non credo proprio. Guardi, la ringrazio. Giovanni, provincia di Cosenza. Sì, buonasera. Sì. Abbiamo iniziato bene questa sera, molto bene abbiamo iniziato. Sì, io volevo intervenire invece sempre sulla polemica di ieri del sindaco di Bologna. Sì. Tra giustizialisti e garantisti. Io credo che non possa essere limitato a questo il discorso, perché bisogna ritornare a un'etica della morale. Scusi, concetto, un'etica di che cosa? Mi scusi, non ho capito. Si deve ritornare all'etica e alla morale. Ah, all'etica perché, e alla morale. Sì, perché i giustizialisti... ho capito, ma cosa... scusi, adesso non parliamo di cose troppo grandi, noi siamo un po' piccoli. Semplice. Sì, ho capito, ma come si applica la vicenda del bono, questo concetto? Cioè, nel senso che bisognerebbe che si ritornasse a una morale, ci dovrebbe essere... praticamente un ritorno ad un'etica dettata da una sorta di patto fatto, no? No, non ho capito, Giovanni, abbia pazienza. Di un codice etico, insomma, sì, ecco. Ho capito, ma di cosa stiamo parlando, Giovanni? Io sto parlando di questo. Se una persona in politica si getta in politica, deve sapere che deve avere un'etica e un codice etico a cui attenersi, perché è l'unico metodo che c'è, questo qua, a mio giudizio. Vabbè, ecco, questo qua vale per qualsiasi carica e per qualsiasi situazione. Allora? Accantonata. Dopo l'epoca post-Tangentopoli questa etica è stata accantonata, perché si butta tutta in polemica e non funziona. Io abito in Calabria, volevo dire. Sì, questo lo sappiamo. C'è regione di cui si parla solo magari per eventi tragici come quelli di Rosarno e quant'altro, però nessuno, magari a livello dei media nazionali, si va a rappresentare che su 50 consiglieri, che 35 sono indagati, per vari motivi, io non voglio entrare nel merito. Però là nessuno che si occupa della normalità. Vabbè, Giovanni, ho capito. Secondo lei i politici italiani sono un po' troppo allegri per quello che riguarda l'etica e la morale, il rapporto con la cosa pubblica? Insomma, cerco di tradurre un po' il suo intervento, che mi pare un leggermente confuso. La ringrazio. Luca da Varese, buonasera. Buonasera a lei, Oscar. Innanzitutto complimenti decisamente. Oscar è Oscar Giannino, che conduce la mattina dalle 9 alle 10. Se vuole lo può sentire, perché insomma, bisogna sentirlo, però qui è un altro discorso. Prego. Niente, il mio intervento era sul fatto dell'eccessiva e quanto inappropriata strumentalizzazione che spesso viene fatta di un'opinione. Abbiamo assistito a un ottimo intervento per parte mia di Celentano, nel senso che ha reso nota, oppure ha sottolineato, diciamo come vogliamo, una situazione che vige in Italia, quella di un ristagno dal punto di vista dei processi, e giustamente, secondo me, evidenzia una situazione dicendo: purtroppo in questo periodo e con queste situazioni abbiamo bisogno ovviamente di una riforma, poiché ci rendiamo conto che questa riforma non sia fatta secondo i termini che viene presentata, questo è logico, però dobbiamo essere consapevoli anche della necessità di questa riforma. Sì, d'accordo Luca, se però vogliamo prendere sul serio quello che scrive Celentano, Celentano dice: siccome lui crede che l'unica cosa che impedisce una bella riforma straordinaria per i cittadini, in cui i processi sono più veloci, è il fatto che ci sono dei processi anche per Berlusconi. Dunque eliminiamo, sgombriamo il campo dai processi di Berlusconi e sicuramente avremo una riforma meravigliosa della giustizia. La ringrazio. Franco da Verona, buonasera. Buonasera Cruciani, e complimenti ai suoi collaboratori. Dica. Allora, mi ricollego alla trasmissione velocemente di ieri, so che sono fuori tema, però quando Sgarbi ha fatto tutta una filippica su quello che è il nepotismo, e mi trovo perfettamente d'accordo. Come mi trovo d'accordo il fatto che, al di là di candidare magari il proprio figlio nelle liste in cui è prevista comunque la preferenza, quantomeno uguale a, non so, nominare o far nominare un proprio figlio che, non so, si definisce trota in importanti consigli di amministrazione, per fargli garantire. Si parla di una possibile candidatura, non si sa se in un listino bloccato o una candidatura alle regionali, ma bisogna anche prendere i voti però alle regionali, non è che si arrivi in consiglio regionale così senza fare nulla. Poi su Sgarbi parleremo più avanti, sull'intervento di ieri. Che voleva aggiungere? Non ho capito. Poi, così, non trovo comunque scandaloso che se uno esprime un'opinione uno possa dire, al di là che sia bianco, rosso, verde, ciclamino, possa dire: ma bene o male la sta pensando come me. Al di là del fatto che Celentano penso che abbia detto... No, non ho capito niente, Franco, non ho capito nulla di questo ragionamento. Che cosa vuole dire su Celentano? Mi scusi. Che, cioè, trovo non scandaloso il fatto che la destra o la sinistra dica: ma Celentano, visto che è un personaggio pubblico che ha un certo ascendente, sta dicendo una cosa con cui mi trovo d'accordo. Stop. Sì, Franco, il problema è un altro, è che le stesse persone che magari prima avevano criticato Celentano su alcune cose, adesso lo prendono a modello per quello che riguarda il processo. Secondo me dovrebbero ignorare il fatto che Celentano oggi ha pubblicato un articolo sul Corriere della Sera in cui si è detto favorevole a un provvedimento ad hoc per Berlusconi. Siamo qui alle 19.17, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Andiamo a sentire il TG3. Anche la Confindustria contro il pizzo, Marcegaglia, e gli imprenditori che non denunciano saranno espulsi o sospesi. Consiglio dei ministri in Calabria, via al piano antimafia, il premier meno clandestini vuol dire meno crimini, il PD così incita al razzismo. Salta l'accordo in Puglia tra PDL ed UDC, Berlusconi possiamo vincere da soli, avanti col nostro candidato, Bersani noi pronti a combattere. Marchionne, cassa integrazione inevitabile dopo la fine degli incentivi, Epifani, Fiat getta benzina sul fuoco, Montezemolo disponibile al dialogo, lancio di sassi e feriti a Ischia durante la demolizione di case abusive, 6 poliziotti feriti e 9 manifestanti denunciati. Milano chiude per smog, domenica tutti a piedi, blocco totale alle auto dopo 17 giorni di emergenza e inquinamento. Bill Gates a Berlusconi, non tagliare gli aiuti ai paesi poveri, i ricchi spendono più per le calvizie che per la malaria. Pietre della memoria nelle strade di Roma in ricordo di coloro che furono strappati dalle case e portati nei campi di sterminio. Sky TG24. Reggio Calabria, c'è il piano antimafia, meno immigrati, meno crimine, dice Berlusconi. Stretta sul lavoro nero, più di 500 ispettori per vigilare su tutto il sud. Fiat si ferma, Montezemolo pronto al dialogo, ma nelle fabbriche monta la rabbia. Regionali in Puglia, tutto come prima, PDL e UDC avanti con i rispettivi candidati. Panorama rivela dietro la Daddario un complotto contro il premier, inchiesta a Bari. Case abusive da demolire, scontri e guerriglia ad Ischia, 6 denunciati. Milano spegne i motori, smog oltre i livelli di guardia, domenica stop a tutte le auto. Mutu positivo all'antidoping e recidivo, rischia fino a 4 anni di squalifica. C'è di nuovo una inutile polemica sulle fiction che riguardano la piovra. Sentite la musica famosissima delle prime edizioni della Piovra, insomma le fiction che parlano della criminalità organizzata in Italia. La riaperta, secondo me in maniera incredibile, Berlusconi durante la sua visita a Reggio Calabria. Davvero non si sentiva bisogno di una polemica già scoppiata una volta, sempre by Berlusconi. Berlusconi in sostanza dice: queste fiction, una di queste se non ricordo male prodotta anche da Mediaset, hanno contribuito a peggiorare l'immagine dell'Italia all'estero. Il ragionamento è, secondo me, assolutamente, come dire, non solo privo di qualsiasi logica, ma non capisco perché un presidente del Consiglio debba parlare delle fiction prodotte dalla televisione. Va bene, sentiamo. La mafia, la 'ndrangheta, la camorra sono una terribile patologia. Ne paghiamo l'esistenza anche per l'immagine che abbiamo all'estero. Abbiamo seguito la brutta abitudine di fare delle fiction e dei film sulla mafia che hanno portato questa negativa immagine dell'Italia in giro per il mondo. Spero che questa moda sia ormai finita. Questo era Berlusconi sulle fiction, ma abbiamo la dose quotidiana del nostro Mazinga, cioè naturalmente Renato Brunetta. Mazinga! Prema! Il regno delle tenebre del male, dalla fortezza della scienza arriva, con i suoi pugni atomici Mazinga. Questa volta a Sky TG24 intervista del ministro onnipresente sui media nazionali, e se la prende però con gli stessi giornalisti dicendo: io non ho mai parlato dei 500 euro ai bamboccioni da prendere alle pensioni e darli dunque ai giovani che non hanno una lira per iniziare una nuova avventura. Mai, non ho mai parlato così. I politici sono una categoria deteriore. I giornalisti peggio. No, mi aspetti, i politici professori peggio mi sento, però i giornalisti. Allora, non ho mai detto una cosa di questo genere. Io ho sempre detto, e ho le deregistrazioni cartacee e sonore, che io volevo dare, penso che sia giusto dare ai giovani borse di studio, prestiti d'onore, detassazione o contributi per l'affitto della casa, sì, e incentivi per mettersi in proprio. Queste quattro cose ho detto domenica in tutte le trasmissioni. Queste cose ho detto per un ammontare di 500 euro almeno. Colpa dunque delle polemiche che sono venute fuori e dei giornalisti. Peccato che il governo sia intervenuto dopo dicendo che erano idee personali di Brunetta. Devo dire però che Brunetta ogni tanto ha il gusto di andare controcorrente, non è che sia il compito del ministro della funzione pubblica, che è un po' un tuttologo oggi. In ogni caso lo stesso Brunetta lo ammette. Ogni tanto bisogna dire anche qualcosa di che non accarezza il pelo. Ah, no, questo lei lo fa spesso. Io lo faccio spesso, ho il coraggio di farlo e anche il coraggio dell'impopolarità. Per esempio, sempre in questo intervento a Sky TG24, il nostro Mazinga cosa dice? Se non ho capito male, di essere contro le Olimpiadi a Venezia, credo, però insomma datemi voi la vostra interpretazione, perché non si capisce bene, perché parla di città in declino, insomma, per un candidato sindaco che dice, se lo ha detto, di essere contro le Olimpiadi del 2020 per le quali si è candidato a Venezia, sicuramente una cosa controcorrente. Ma è vero che non vuole le Olimpiadi a Venezia? No, assolutamente. Vede, le Olimpiadi sono un grande evento, i grandi eventi servono per le città per crescere, per dotarsi di infrastrutture, purché siano città però che vivono, certo, che vogliono vivere. Ma una città che in declino, un'Olimpiade non serve assolutamente. A proposito, vabbè, insomma, contro le Olimpiadi sembra, di capire, contro le Olimpiadi, anzi me lo confermano, contro le Olimpiadi a Venezia 2020. Questa sicuramente è una cosa controcorrente, perché per un candidato sindaco a Venezia è molto facile dire sì, facciamo le Olimpiadi, lavori, una cosa meravigliosa e fantastica. Lucia Annunziata questa mattina è tornata sulla vicenda Bertolaso. Ha già scritto un articolo per La Stampa, questa mattina è stata ospite di Alessandro Milan a Bianco e Nero e ha detto, secondo me anche per difendere la sua intervista a Bertolaso, e poi sicuramente ne sarà anche convinta, però in questi casi scatta anche una difesa del proprio lavoro, quasi un'immedesimazione nell'intervistato, Bertolaso, che gli ha concesso un'intervista che ha fatto rumore. Comunque Bertolaso ha ragione, sentite. Io penso che quello che Bertolaso ha detto, quello che stanno dicendo gli altri, dimentichiamoci un attimo Hillary Clinton, gli americani eccetera, è che ad Haiti dopo 15 giorni gli aiuti alla popolazione non sono sufficienti. Allora, vogliamo guardare al contenuto o vogliamo perderci come sempre in Italia, nel mondo occidentale, a fare un discorso su chi doveva dire chi? Cioè, il punto, ho pensato questa mattina per dire, vogliamo prendere atto che non importa chi l'ha detto X, Y, eccetera, eccetera, forse la macchina degli aiuti va un attimo rivista. Ancora l'Annunziata, una stupida battaglia delle parole, non bisogna dire Bertolaso non poteva fare quelle affermazioni perché è rappresentante del governo, bisogna concentrarsi su quello che ha detto. Uno dice i poveri non mangiano e noi discutiamo di se quello che ha detto che i poveri non mangiano aveva il diritto di dirlo e dall'altra parte si può criticare, non, quell'altro è ferito. Cioè, questa è una battaglia delle parole, è una questione di sostanza che ha detto Bertolaso e su cui io sono perfettamente d'accordo. Eccoci qua, 19:26, 800 24 00 24, questa era Lucia Annunziata che difendeva Bertolaso. Ultima cosa di giornata, poi ascoltatori, Filippo Facci contro Antonio Di Pietro, non è una novità, però Facci sottolinea una cosa che già noi nei giorni scorsi avevamo detto. Di Pietro, dopo aver criticato più volte Vendola, diciamo fino a settembre-ottobre, adesso sale anche lui sul carro del vincitore. Filippo Facci questa mattina a Mediaset. 12 agosto scorso, Vendola si è ammalato di berlusconite, noi siamo la cura, cioè noi dell'Italia dei Valori, questo è Di Pietro appunto. Poi il 30 agosto ha detto, noi facciamo un accordo politico solo se c'è Boccia, l'altro candidato, e via Nichi Vendola, sempre Di Pietro che parla, bene. Nel novembre scorso, al 29, dice sempre Di Pietro, Vendola faccia un passo indietro, va bene. Ha fallito, si faccia da parte. Questo invece l'ha detto il 14 dicembre, cioè quindi pochissimo tempo fa. Benissimo, poi lunedì ci sono state appunto le primarie. Trionfo di Vendola, Ria Di Pietro, che appunto era contrario alle primarie. È tempo di belle primarie aperte a tutti. Facciamo i migliori auguri a Nicola Vendola e si mette a festeggiare anche lui. tanti auguri al Partito Democratico e ad Antonio Di Pietro. Flavio da Cremona, buonasera Flavio. Buonasera, io volevo toccare un tema di cui si è parlato tantissimo ultimamente e poi se ne parla sempre meno, ed è quello sui dipendenti pubblici. Essendo io un dipendente pubblico, difendo non l'operato dei fannulloni, per carità, se Brunetta li toglie io sono uno di quelli che è contentissimo di questa cosa qua. Però secondo lei non è cambiato nulla? Non è cambiato quasi nulla, tranne qualcosa tipo i voti che ci stanno dando con dei metodi addirittura kafkiani, ma lasciamo perdere anche quest'altro tema. Però io dico, cioè, le presenze non sono aumentate? Le presenze, per esempio, non sono aumentate? Ma io lavoro in un ambiente, io lavoro in ospedale. Sì. E in ospedale, beh, l'ospedale è già una cosa diversa. Esatto. Allora, siccome anche l'ospedaliero, io inviterei il signor Brunetta. Flavio, non sentiamo più nulla. L'ospedaliere. Nello stato, soprattutto pronto. Guardi, non sentiamo più nulla. E allora ci risentiamo dopo la borsa. Questa sera va così con le telefonate. Che dobbiamo fare? Bene, 19.32, 800 24 00 24. Direi di riprendere con gli ascoltatori. Non so se Antonio dalla provincia di Lecco c'è ancora. Antonio? Sono qua. Angelino. Eccoci qua. Dica. Sapevo che sbagliavano. Ringrazio per avermi chiamato. Allora, io volevo tornare lapidariamente sulle polemiche seguite alle dichiarazioni di Bertolaso, cioè a prescindere da nel merito aveva ragione o non aveva ragione, come diceva l'annunziata nell'intervento che avete rimandato poco fa. Io ricordo che lei qualche sera fa ha detto, comunque nel merito, rappresentante del governo, non poteva esprimere una posizione così forte. Se questo può essere condivisibile, io devo dire che sono rimasto ancora più male per il fatto che il governo ha fatto subito una corsa a smentire, a riprendere questo suo funzionario. Scusi, ma è abbastanza normale che il governo abbia fatto una cosa di questo tipo? Dopo un intervento come quello del segretario di Stato americano, cosa vuole che facesse il governo? Sì, sono d'accordo, però magari un piccolo accenno, insomma, ai meriti di questo funzionario. A mio modo di vedere, io sono un grande stimatore, la nostra Repubblica ha bisogno di funzionari a livello di Bertolaso, una competenza, una capacità di applicazione e incommiabili e rarissime nel nostro paese, per cui almeno un aggiustamento del tiro, nel senso, perché nel corso di queste polemiche addirittura ho letto in giro, insomma, anche di possibilità di abbandono del ruolo da parte di Bertolaso, mentre sì, io credo forse che se ne è parlato, ne hanno parlato i giornali. Io non lo so, non credo che sia in agenda l'abbandono di Bertolaso. In ogni caso, Flavio, oggi ho letto una cosa credo condivisibile da parte del direttore della stampa calabresi, il quale cosa dice? Dice, siccome l'Italia deve mandare ancora gli aiuti, arriveranno fra una decina di giorni, criticare in quel modo chi manda gli aiuti sin dall'inizio e chi si impegna magari commettendo degli errori è una gaffe diplomatica pazzesca. Ed è così, secondo me, al di là del merito di quello che dice Bertolaso, che potrà anche essere condivisibile, ma non sta a Bertolaso fare questo tipo di discorsi. Ci sono i cronisti, ci sono gli osservatori, non sta un rappresentante del governo attaccare a tutto campo l'ONU, le organizzazioni internazionali, che per carità sono attaccabilissime, le possiamo attaccare noi, ma non un rappresentante del governo che dice che non funziona nulla. La ringrazio. Flavio da Cremona, con cui era caduta la linea, eccolo qua Flavio. Esatto. Allora, no, per riprendere il discorso dei fannulloni. Allora, lei cosa rimprovera Brunetta? Però vada al sodo. La pubblicità che fa adesso addirittura i bambini dei 18 anni, cioè che devono andare fuori di casa, ma quello che voglio dire, se lui riuscisse a fare quello che dice, al di là dei ragazzi di 18 anni, togliamo i fannulloni, hanno fatto vedere tanti servizi in TV dove ci sono dei mercatini all'interno di ministeri, cioè lui non riesce a risolvere il problema sotto casa sua, come può pensare di risolvere in una provincia, in un comune disperso? Se lui lo fa, se riesce a razionalizzare come dice, a migliorare il sistema. E poi un ultimo dato, quindi io... Ma non ho capito questa cosa di casa sua, che c'entra casa sua? Casa sua vuol dire i ministeri a Roma. Hanno fatto vedere dei servizi in televisione, sì, dove la gente, senza aver stimbrato il cartellino, va a fare. Ho capito, ma è quello che Brunetta vuole combattere, questa cosa, non è che incentiva il fatto che la gente vada fuori ai mercatini. Mi scusi, Flavio. Tanta pubblicità demagogica, eccetera. Un altro dato: noi prendiamo, noi ospedale, dipendenti, sì, che lavoriamo 365 giorni all'anno, quindi il, sì, fannullone. Mi dà fastidio che lui spari a zero su tutta la, sì, categoria. Ma non è che si rivolgeva a quelli che lavorano, mi scusi Flavio, lei lavora, non è un fannullone, punto. Allora? Fannullone, però lui è il più amato dagli italiani, lo dice tutte le volte che lo intervistano, sì, perché nella percezione di quelli che non sono dipendenti pubblici, e la percezione di quelli che non sono dipendenti pubblici è che quasi tutti lo siamo fannulloni. Allora io inviterei invece il signor Brunetta a fare una piccola retromarcia e a dire: escludiamo quelli che si stanno il mazzo, scusi il termine, escludiamo quelli che stanotte stanno lavorando in un pronto soccorso, che stanno aprendo un torace a una persona e gli stanno salvando la vita, perché non esalta i suoi dipendenti pubblici e li paga anche secondo le regole europee? Beh, in teoria Flavio, veloci, perde, non è che Brunetta possa risolvere il problema del salario dei dipendenti pubblici in Italia, però Flavio, lei pensa veramente che sia una sorta di UFO robot? No, non è un UFO robot. Fino adesso però mi dispiace, ma a parte l'accanimento contro questa categoria molto diversificata, dove all'interno sì, c'è di tutto, non si è visto nella concretezza di chi ci lavora dentro un miglioramento della cosa, nel senso, toglimi questi fannulloni e quindi... Sì, però Flavio, lei parla dal suo osservatorio, che è quello sugli ospedali, che è un osservatorio particolare. Diciamo, fonti indipendenti dicono che, per esempio, per quello che riguarda le presenze dei dipendenti pubblici, qualche miglioramento c'è stato. Poi non è tutto, naturalmente, perché ci vuole l'efficienza. Sappiamo che uno può andare in ufficio e anche giocare in ufficio, ma insomma ci sono tanti discorsi da fare. La ringrazio, Flavio. Teodoro da Bari, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Innanzitutto volevo sfatare il discorso dei filtri. Non ci sono filtri, le ragazze sono brave, pertanto vorrei fare i complimenti. Bene, bene, grazie. Poi volevo dire una cosa. Secondo me chi ha perso la bussola politica è sì, un certo Massimo D'Alema in Puglia, perché ha soltanto seminato zizzania. Però Teodoro, questa è una cosa che già sappiamo da 3-4 giorni, che uno degli sconfitti in Puglia è D'Alema, eh? Che c'è di nuovo? Non è Bersani, bisogna chiarirlo. Cioè, Bersani secondo me ha cercato soltanto di dare carta bianca a un rappresentante del suo partito, e pertanto adesso mi sembra che D'Alema ha preso un'altra strada, e meno male, rafforzando però il carisma di Nicchi Vendola, perché poi alla fine dove ci sono molti galli si dice non fa mai giorno. Secondo me tra le ultime dichiarazioni, tra Berlusconi che ha gettato la spugna perché non vincerà mai le elezioni in Puglia, tra Casini che dice che ha individuato la Polibortone, in realtà non è né dell'UDC né del PDL, pertanto si potrebbe trovare una forma così di compensazione, non sa neanche lui quello che dice. L'unico vero gallo qui è Nicchi Vendola, perché è uscito più forte da questa sconfitta, sta facendo un lavoro discreto nella quale sanità. Sconfitta, mi scusi? Da questa sconfitta del PD è uscito più forte. No, lui ha vinto, sì, certo, dalla sconfitta del PD. Esattamente, e dalla sconfitta del PD è uscito ancora più forte. Soltanto da questo punto di vista penso che lui abbia tutte le carte in regola per... Va bene, Teodoro, grazie. Andrea da Brescia, buonasera. Però prima dell'intervento di Andrea e di Francesco alla provincia di Frosinone, di Riccardo alla provincia di Siena, voglio farvi riascoltare quello che ieri sera ha detto Vittorio Sgarbi qui da noi su Di Pietro, per ribadire una cosa che il sottoscritto e naturalmente la radio si dissocia da queste affermazioni di Sgarbi che riguardano la vita personale di Antonio Di Pietro. So che Di Pietro se ne sta interessando, se non fosse chiaro quello che è stato detto ieri sera, insomma, facciamo riascoltare e ritorniamo a dire che ci dissociamo totalmente dalle affermazioni fatte da Sgarbi all'improvviso qui, ma insomma può succedere. In diretta si parlava di familismo, di Del Bono, eccetera eccetera. A un certo punto Sgarbi ha detto queste cose, sentite. E perché l'amante di Pietro deve essere la tesoriera in Parlamento? Vabbè, no, qui l'amante di Pietro, nome e cognomi. Attenzione qua, Vittorio, tu dici, scusa, ma che la tesoriera Silvana Mura è l'amante di Pietro, qui insomma, no. Sono certo che è stata amata da lui. Beh, ho capito, però perché questa cosa di cui parliamo è quella sì, che riprovano Berlusconi. Cioè Berlusconi l'ha fatta 36 volte, Di Pietro una è uguale, una e 36 è uguale, meglio Berlusconi che l'ha fatta 36 volte. Ma se io fossi Berlusconi mi attaccassi Di Pietro, e tuo figlio, perché tuo figlio deve diventare consigliere provinciale? Perché? Qual è il suo merito? Va bene, sull'amante di Pietro, non, per carità, ritiriamo quella cosa lì. No, io sono assolutamente certo che la Silvia Mura è stata amata da Di Pietro, ma non è una cosa di per sé criminale, non c'è un reato, però c'è un dato di sensibilità. Io ti dico, ho simpatia per la Mura. Si chiama Silvana e io non so nulla, uso una frase fatta, insomma, mi dissocio da quello che dice Sgarbi, nel senso che non so assolutamente nulla di questa vicenda. Però... Adesso lo sai e te lo posso dire con testimoni e prove concrete. Questo Sgarbi, 1940 800 24 00 24, noi qui si parla ogni tanto anche di sesso e di politica, perché sono argomenti sulla bocca di tutti, però non facciamo mai affermazioni che riguardano la vita personale, a meno che non escano sui giornali o non siano cose note, per cui quando uno ci viene a dire quella è stata l'amante di quell'altro, dobbiamo prendere le distanze per forza. Non è una presa di posizione preventiva per cose che possono accadere nel futuro. Davide da Pisa, buonasera. Sì, salve, buonasera Cruciani. Io volevo fare una considerazione sullo stato della politica partendo da quello che ha detto Celentano. Mi corregga se sbaglio, ha detto due cose fondamentali. La prima è che siamo bloccati a livello giudiziario, che se non ci sbrighiamo a risolverla siamo quasi a punto di non ritorno. E poi dopo lui ha espresso la sua opinione dicendo vabbè, io sono disposto anche a far questo. Allora io da cittadino dico, di quello che pensa Celentano non mi interessa assolutamente, mi interessa evidentemente che siamo bloccati. E oggi pomeriggio io ho sentito proprio in trasmissione sia Gasparri e chi gli stava davanti dall'altra parte, non ho capito chi fosse, che hanno perso un'occasione ancora una volta, anziché parlare del problema, quindi della causa, sono andati all'effetto, cioè hanno discusso 10 minuti sull'opinione di Celentano, che non interessa a nessuno, e se hanno perso 10 minuti, hanno perso tempo 10 minuti. È questo, io credo, che noi dobbiamo volere da loro, insomma. Devono, sì, Davide, si parlava in realtà di processo breve, di provvedimenti sulla giustizia, poi hanno parlato anche di Celentano. A me, insomma, sembra bizzarro come lei che si debbano interessare di quello che scrive Adriano Celentano sul Corriere della Sera sul processo breve, ma se ne sono interessati perché sembrava un intervento pro berlusconiano. Va bene Davide, la ringrazio. 800 24 00 24 Riccardo, provincia di Siena, poi collegamento con Adriana Polibortone, se la troviamo al telefono, se la troviamo. Riccardo, dica. Sì, buonasera. No, mi scusi, arrivo un attimo in ritardo appunto per la stessa considerazione che ha fatto l'ascoltatore di Pisa. Per il semplice fatto che non capisco perché in Italia diamo tutta questa importanza sui temi della politica, in questo caso, piuttosto che in altre circostanze, da parte di chi lavora nel mondo dello spettacolo. Cioè, a me il fatto che Adriano Celentano possa dare ragione a una fazione politica piuttosto che a un'altra, sinceramente poco mi tocca come discorso. Stesso può valere per la Ferilli in altri frangenti, piuttosto che la settimana abbiamo trovato il primo calabrese che votava per la Lega, che era Gattuso, e non credo che sia il primo. Ha fatto un grandissimo clamore questo fatto, la Lega l'ha sempre preso i voti in Calabria, cioè magari in minoranza, ci mancherebbe, però l'ha sempre presi, non capisco perché dare tutto. Beh, ma ogni tanto la stampa gioca con queste cose. Importante è che i politici non vadano dietro a queste sciocchezze, cioè attaccarsi alle parole di Adriano Celentano oggi sul Corriere della Sera per sostenere che è cosa buona e giusta fare una piccola legge a favore di Berlusconi mi sembra una cosa ridicola. La ringrazio. Eccoci qui con l'ex sindaco di Lecce, senatrice Adriana Polibortone. Buonasera. Buonasera. Eravamo rimasti ieri sera, l'avevamo chiamata, lei era al Senato, ci devo pensare, non so. Insomma, alla fine lei ci ha pensato e dice di no alla proposta di Berlusconi di ritirarsi. È andata così, ci spieghi? Non è che dico di no, per fare un dispetto a Berlusconi, dico, d'accordo. Assolutamente. Dico un no che mi sembra abbastanza ragionato, nel senso che se si deve fare un passo indietro lo si deve fare avendo una prospettiva di un candidato che possa essere più forte da un lato di me e più forte dall'altro lato di me. Invece queste premesse non c'erano? Ma non c'era un altro candidato? Quelli che ho sentito erano tutti i nomi della cosiddetta società civile, per esempio? Che mi sembra ingiusto mandare così allo sbaraglio a 50 giorni della campagna elettorale soltanto perché non si riesce a mettersi d'accordo fra di noi, insomma. Non... Insomma, diciamo la verità, senatrice Polibortone, lei pensava di avere tutte le carte in regola per essere scelta come candidato sia dall'UDC che dal PDL. Insomma, lei è una persona da questo punto di vista, no, giustamente fiduciosa delle sue capacità, o no? Ah, ecco, lei è di quelli che si iscrivono al molto io e poco sud. No, perché? Adesso lasci perdere la questione del sud, che è un altro discorso, per carità, è importante per quello che la riguarda, però lei pensa, no, giustamente ognuno ha fiducia nelle sue capacità. Io non sono falsa, Per cui credo che ogni politico abbia l'ambizione di fare qualche cosa. Ecco, appunto, io quello dicevo. Non conosco politici che non siano ambiziosi. E io quello dicevo. Senta, ma è vero che Berlusconi in realtà, come leggo da qualche parte, insomma, era convinto che lei fosse la candidata giusta? Mi racconti questa cosa bene? No, guardi, io non le racconto proprio niente, perché nei pensieri del Presidente non posso entrare. No, però scusi, oggi sulla stampa io leggo... posso dirle soltanto che... Sì. Il Presidente è una persona che io stimo e lui d'altra parte continua a stimarmi. Abbiamo mantenuto e manterremo per il futuro, comunque vadano le cose, i nostri rapporti di stima e di amicizia, e tutto finisce là. Dunque Berlusconi preferiva lei a Palese? Ma non lo so se mi preferisse a Palese, penso che, dico, in fin dei conti Berlusconi mi ha avuta come suo ministro. Ah vabbè, lo preferisce lei a Palese, che male c'è? Mi ha conosciuta nel tempo, devo dire che mi ha sempre detto che per quei pochi mesi in cui ho fatto il ministro riteneva che l'avessi fatto sufficientemente bene, per cui penso che abbia stima per quello che sono riuscita a fare. Scusi, oggi sulla stampa io leggo un virgolettato, poi magari i giornalisti si sono inventati tutto. Giovedì scorso mi ha telefonato Berlusconi e ha sospirato: Adriana, abbiamo solo il 50% di possibilità di candidarti, hai contro N. E poi eccetera eccetera. Ancora, il Presidente mi vorrebbe, me l'ha detto tante volte anche di persona, sarebbero parole sue, lei le ha dette queste parole, le ha pronunciate? Ma no, questa cosa così il Presidente mi vorrebbe, ma oddio, che il Presidente avesse una predisposizione a pensare che io potessi essere la candidata buona per la campagna elettorale in Puglia. Questo è vero. Io ritengo di aver capito bene. Questo volevamo sapere. Senta una cosa, ma è vero? Ho capito bene, però ci sono indubbiamente, il Presidente è Presidente del PDL, deve tener conto ovviamente di tutte quelle che sono anche le controindicazioni all'interno del PDL. Ed è vero dunque che... È giusto che faccia così. Ed è vero che è AN, non so, una parte di AN, non so quanti, insomma, non volevo... Io l'ho letto sulla stampa, quindi questo lei che è giornalista lo sa certamente meglio di me. No, ma io lo chiedo però se è vero. Ho letto un documento di alcuni ex di AN, Amoruso, un deputato leccese Lisi, Saccomanno, insomma ho letto di queste persone di ex AN che si sono espressi in maniera negativa nei miei riguardi, quindi avendolo letto è un documento ufficiale, per cui... Vabbè, adesso al di là dell'ufficialità, a me sembra che questa storia pugliese sia una storia un po' di faide interne anche al PDL, Fitto, eccetera, eccetera. No, anche lei ha questa impressione? Ma io ho l'impressione che all'interno del PDL ancora non abbiano trovato quell'amalgama giusto per riuscire a stare insieme, come accade in tutti quanti i grandi partiti, specialmente in un momento difficile qual è questo. È anche molto comprensibile che anche all'interno del PDL non ci siano sempre delle convergenze di pensiero. Senta, pare che lei abbia già pronto lo slogan della campagna elettorale, è vero? No, non era mio quello slogan. No. Ecco, com'era? Com'era? Sfittiamo la Puglia palesemente, com'era? Sì, sì. No, ma a parte che sarebbe incomprensibile. No, io ho un gruppo di giovani che lavorano con me, che sono molto spiritosi. Io, essendo una persona anziana, non ho sufficientemente... anziana, adesso non esageriamo. Io ho 66 anni, per cui io sono una persona decisamente, oggettivamente anziana. Quindi non ho questo spirito così sarcastico come invece ce l'hanno i giovani. E i giovani si erano espressi in questi termini. Senta una cosa. Non mi sembrava comunque uno slogan da campagna elettorale. No, nemmeno a me, devo dire la verità. Esatto. Senta una cosa, ma... mi faccia capire bene, questo Rocco Palese lei lo definisce, leggo da qualche parte, poco effervescente? No. Beh, all'Unità, non è che i giornalisti si possono inventare tutto. Io l'articolo dell'Unità non l'ho letto. No, ho detto, probabilmente avrò detto una cosa del genere, che a fronte di Vendola, che certamente è una persona colta e particolarmente effervescente, Rocco Palese è certamente una persona molto meno brava, effervescente, dirigente e tutto, ma guardi che è difficile essere effervescenti come Vendola, Lei come pensa di fare allora? È molto facile. Come pensa di fare per contrapporsi all'effervescenza di Vendola? non lo so, penso di, o penserei o avrei pensato, perché ormai mi sembra che le cose siano differenti, di essere semplicemente come sono, niente di più. Ma perché sono differenti? Comunque lei è in corsa lo stesso. Sono antipatica tante volte, sono assolutamente odiosa tante altre volte, sono irrispettosa tante altre volte, qualche volta sono anche gentile. No, vabbè, ma questo va bene, ma voglio dire, lei come pensa di lei è ancora in corsa, mica si ritira, no? No, io sono in corsa col mio movimento Io Sud, con appoggiato dall'UDC e certo, con altri movimenti. L'MPA ha detto che sta con noi, l'ha già dichiarato ad alta voce, ma ce ne sono anche degli altri. Senta, ma mi dica la verità, insomma, questo Vendola mi sembra, per come stanno le cose, favorito. Berlusconi dice che farà campagna elettorale personalmente, che andrà in Puglia a fare comizi, eccetera. Ma Berlusconi è bravo e lo fa, e sono sicuro che si impegnerà fino in fondo. Vabbè, insomma, la ringrazio. La situazione, insomma, dopo un po' di riflessione ha deciso di non ritirarsi perché i nomi non le piacevano. Ma insomma, questi nomi, no, chi erano? Non mi piacevano, guardi, non mi faccia dire delle cose che non ho detto. Nomi sono nomi di tutto rispetto, persone che io stimo e che conosco personalmente. D'Ambrosio è un'ottima persona, Di Bartolomeo è un'ottima persona, Francesco Di Vella, mio caro amico, mi ha detto subito no. Per cui le due persone che le ho citate in precedenza, con le quali ho anche dimestichezza perché le vedo, le incontro, eccetera, sono senz'altro delle ottime persone, non ritengo che in questo momento di campagna elettorale, con questa forte presenza di Vendola, che è un candidato molto difficile da battere, non penso che si possa dire a due persone che vanno rispettate anche nella loro dignità personale fino in fondo, gettatevi nella mischia. Non mi sembra, se lo dico, può darsi pure che sia così, semplicemente un mio pensiero. Vabbè, ma insomma, all'effervescenza di Vendola, all'effervescenza di Vendola, che cosa si contrappone? Cosa contrappone la Poli Bortone? Io gliel'ho detto, penserei che il ministro Fitto certamente può essere un candidato di fronte al quale noi ci possiamo tranquillamente tirare indietro. Attenzione, ma c'è questa possibilità ancora? Ma l'ho detto, l'ho ripetuto, ne sono convinta. Ha la conoscenza giusta, fa politica da 22 anni, è ministro e quindi è certamente il riferimento più alto del centrodestra in Puglia. Conosce benissimo Vendola, quindi conosce anche con quali argomentazioni si può contrapporre a Vendola. Per me, se il ministro vuol fare il candidato contro Vendola, sono disponibile. Ma questa è una provocazione o una cosa concreta che potrebbe avvenire nelle prossime? Una cosa concreta, non mi permetterei di fare provocazioni a 50 giorni dalla campagna elettorale. No, ma potrebbe l'UDC potrebbe andare confitto, secondo lei? Ma io penso proprio di sì. Ma se ne parla in queste ore, una cosa di cui si parla oppure guardi, no? Se ne parla, ne abbiamo parlato fra di noi, io l'ho detto a chi me l'ha chiesto dei giornalisti, non conosco il pensiero di Fitto, non ho sentito nessuna risposta, non l'ho letta da nessuna parte. Però scusi, adesso poi concludiamo, però è un po' assurdo che dopo tutti questi giorni eccetera si vada su un candidato che magari all'inizio poteva essere quello più naturale, cioè l'ex presidente della regione, l'uomo di Berlusconi in Puglia, così come si dice, eccetera, uno che conosce la regione molto bene. È un po' bizzarro, no? No, perché bizzarro? Siamo veramente sotto campagna elettorale, non siamo più in una situazione di tranquillità e di serenità come poteva essere 5-6 mesi addietro, quando ancora c'era lo spazio per guardarsi in giro, per vedere concordemente di trovare un candidato che andasse bene per tutti. Noi siamo venuti fuori con i candidati domenica, 5 minuti prima che si sapesse della vittoria strepitosa di Vendola è venuto fuori il candidato del PDL e poi il giorno dopo è venuto fuori il candidato di Io Sud UDC. Va bene, grazie, buona serata. Grazie a lei. 19:55, avete sentito, c'è la possibilità di una soluzione, mentre sembrava di una soluzione unitaria per il PDL e l'UDC, poi dall'altra parte, dalla parte del centro-sinistra hanno già deciso. 800 24 00 24, Stefano da Torino, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Volevo che lei potesse manifestare la bassezza di Sgarbi, perché fare quelle affermazioni che ha fatto Vittorio Sgarbi, non, mi pare sindaco di Salemi ora, quindi non un grande politico, uno statista, ma non è mai stato, sulla vita privata di un uomo politico, seppur discusso e discutibile in quanto uomo politico, anche egli non un grande politico e nemmeno un grande statista, ma fare affermazioni sulla vita privata, cioè di Pietro all'amante che sta pure lei nella politica, eccetera, è di una bassezza inqualificabile. Per cui la ringrazio da cittadino, che lei si è dissociato naturalmente, ma avrei preferito avesse anche detto che tutto questo non fa parte di un'etica. No, ma Stefano, se vuole lo dico con più forza, se non era, se non era abbastanza chiaro. Sgarbi ha parlato della vita politica di una persona dicendo di avere delle prove, ma ripeto, io mi sono dissociato sia ieri, lo ripeto ancora oggi, per maggiore chiarezza. Non si possono fare delle affermazioni sulla vita privata di una persona così, in maniera leggera, Stefano. E soprattutto quando non hanno rilevanza. Sì, perché insomma noi, come lei sa, noi spesso critichiamo anche in maniera scherzosa le affermazioni di Di Pietro, ma si resta sempre nel campo, nell'ambito della polemica politica, insomma, no, nel campo della discussione politica, che non ha nulla a che fare con gli affari personali di Pietro, a meno che questi affari personali non abbiano una rilevanza pubblica, naturalmente, no? Paragoni con le questioni di Palazzo Grazioli piuttosto che non so cos'altro, per le quali tra l'altro non si sa ancora come sia andata. Sì, no, Sgarbi voleva fare un ragionamento sul fatto che non si può accusare qualcuno della propria vita privata, eccetera, eccetera, perché anche Di Pietro e anche, non mi ricordo quell'altro esempio apportato, hanno di che rimproverarsi. Non lo so, francamente, insomma, ripeto, non si possono fare certe affermazioni sulla vita privata delle persone, su questo non c'è dubbio. Ringrazio Luciano da Padova. Eccomi qua. Eccoci, dica. Luciani, ti senti? La sento, dica. Ecco, allora io avevo fatto l'intervento, cioè avevo chiesto di intervenire sulla faccenda di Bertolaso, no? Allora, per forza che questa cosa di Bertolaso ha sollevato un sacco. Dunque, la meritocrazia non è più di questo mondo. Non siamo più abituati a dare merito alla meritocrazia. Mi scusi il gioco di parole. Bertolaso, pronto. La sento, Luciana. Bertolaso può permettersi di dire tutto, perché è uno che lavora. Cosa dobbiamo prendere? Lezioni da chi? Dal bamboccione di Clinton? Forse no, però mi scusi, Luciana, per carità, va benissimo che lei dia del bamboccione a Clinton. Lei può dire quello che vuole. Lei sostiene che Bertolaso può andare ad Haiti, parlare male dell'ONU, degli Stati Uniti, come e quando vuole. Ma insomma, Bertolaso non è che sia solamente... Sì, il rappresentante della protezione civile è anche il sottosegretario del governo, è evidente che provoca un pandemonio diplomatico, no? Eccoci qui con i titoli del TG5. Governo riunito a Reggio Calabria, ha varato il piano antimafia, attacco ai patrimoni e via libera all'agenzia che gestirà i beni sequestrati. Berlusconi, meno clandestini, meno forze alla criminalità. Confindustria, chi non denuncia il pizzo è fuori. Bologna, dimissioni ufficiali per il sindaco Del Bono. Corsa contro il tempo per votare a fine marzo. In Puglia salta l'intesa tra PDL e UDC. Fiat, Montezemolo, pronti al dialogo. Per Scajola e i sindacati l'annuncio della cassa integrazione non aiuta. Domani il tavolo tra azienda e governo. Anziani maltrattati e legati ai letti, orrore in un istituto di Ascoli. Arrestate 8 persone. La stessa casa di riposo al centro di un altro scandalo 10 anni fa. La Cassazione ci ripensa, dire vaffa è reato e va punito. La controversia nata tra due vicini di casa per un parcheggio. Il 6 al Superenalotto vale 131 milioni di euro, è il jackpot più alto del mondo. I numeri vincenti in diretta. Va bene, TG1. Governo approva piano antimafia, premier, meno clandestini uguale meno criminalità, al via agenzia per beni confiscati a Cosche. Emergenza smog, domenica a Milano blocco del traffico, per Legambiente, Napoli, Torino e Ancona le città più inquinate. Confindustria contro il pizzo, il presidente Marcegaglia annuncia chi paga e non denuncia sarà espulso. Ischia, tafferugli e contusi, vincono la legge le ruspe, abbattuta la prima villetta abusiva, la rabbia degli abitanti. Haiti, dopo 15 giorni una ragazza trovata viva sotto le macerie, l'ONU raccolti 2 miliardi di dollari per la ricostruzione. Mandare a quel paese un vicino di casa è reato, dice la Cassazione, ma le parolacce invadono ogni ambiente. A Maranello è nata la F10, la monoposto della riscossa Ferrari, Alonso e Massa e i suoi piloti, lunedì il debutto in pista. Va bene, Andrea ci chiama da Genova, buonasera. Buonasera, salve Cruciani, piacere di sentirlo, lo ascolto sempre tutte le sere. Dica. Io volevo fare un appunto, insomma, ritornare un po' sulle parole che mi ha detto Brunetta riguardo che i padri mangiano il pane ai figli. Io la metterei sotto un punto di vista diverso, nel senso che qua c'è qualcuno che è andato a mangiare al ristorante e ha lasciato il conto da pagare, perché noi che siamo una generazione, io parlo per me o per le generazioni che insomma che frequente, quarantenni, siamo persone che dobbiamo pagare gente che è potuta andare in pensione con le baby pensioni, con gli esodi, con le forze dell'ordine, 19 anni, 6 mesi, un giorno, cioè c'è una pletora di persone in Italia che hanno lavorato nelle amministrazioni pubbliche, ma anche diciamo nelle grandi aziende a partecipazione statale, che hanno preso fior di pensioni che noi ce le sogneremo. Cioè, Brunetta ha detto una cosa sacrosanta. Come mai nessuno di queste persone qua che sono in pensione, che sono diciamo... No, ma lei ha ragione Andrea, il punto è un altro, che Brunetta non ha detto solo questo, questo è un discorso che fa da un sacco di tempo sulle pensioni, anche se in questo momento il governo è in una posizione un po' minoritaria, perché non tira aria di riforma delle pensioni. Però ha detto anche che si potrebbero prendere 500 euro dalle pensioni e trasferirle ai bamboccioni, una cosa insomma... oltre che impossibile poi da fare concretamente, anche piuttosto fumosa. Poi ha protestato, i giornalisti mi hanno capito male, in realtà quella frase era buttata lì in quel modo. Poi Brunetta ha anche parlato della riforma delle pensioni, però insomma a me sembra che sia un po' malato di ipertrofia mediatica, ecco, sua Brunetta, francamente. Per carità, io a me sta simpaticissimo, riconosco molto merito a Brunetta, però ha un po' questo... ha un po' questo difetto. Qualche minuto con Barbara Palombelli, grazie, buonasera. No, grazie a te, io ti seguo spessissimo e sono la tua ammiratrice. Che conduce 28 minuti su Radio 2, lo ricordiamo sempre. Sì, grazie. Intanto volevo chiederti una cosa su una polemica di questi giorni. Tu stai con Bertolaso o con Hillary Clinton? Con Bertolaso. Come l'annunziata? Gli americani. Ma no, ma perché conosco abbastanza la situazione di Haiti, perché mia cugina ha vissuto lì 20 anni, e il problema di Hillary Clinton è che suo marito è responsabile della condizione in cui era Haiti prima del e questo Trump, è vero, no? E questo è vero. E quindi credo che ci sia una codona di paglia e che però la cosa sia stata gestita bene. Guido Bertolaso è una persona molto diretta e probabilmente non si è reso conto che per gli americani essere sottosegretario di un governo amico e qualcosa di più che amico per gli Stati Uniti significa come se parlasse il Presidente del Consiglio. Certo. In America è un po' così, da noi diciamo i ministri, lo dicevi poco fa anche tu, ognuno si sveglia la mattina e parla, insomma negli Stati Uniti se uno fa parte del governo è come se parlasse Berlusconi, no? Esatto, certo. È come se parlasse il Presidente Obama. Per loro è così, per noi siamo più abituati, no? Da quel punto di vista però leggevo l'altro giorno, forse contare fino a 10 prima di parlare, io devo dire non è che mi schiero dalla parte di Clinton, perché è vero quello che dici tu, ci sono anche dei conflitti di interessi lì, più o meno il protettorato clintoniano su Haiti non è che abbia prodotto molto per Haiti, dunque sicuramente c'è una coda di paglia, lo dicevi anche tu, però io credo che un sottosegretario del governo italiano che va lì, gli aiuti devono ancora arrivare, quelli italiani, e si mette a criticare le organizzazioni internazionali, gli Stati Uniti, poi torna indietro dicendo no, mi riferivo solo alle organizzazioni internazionali, abbia fatto un pasticcio di cui non si sentiva molto bisogno, perché poi la situazione di Haiti ci viene raccontata benissimo ogni giorno dai giornali, cioè il caos, non è che fa il cronista Bertolaso, no. Abbiamo una razionalità nell'organizzazione sì. Dei campi, l'abbiamo dimostrato in Libano, cioè siamo più bravi. Dimostrato in Kosovo. Secondo me è abbastanza sì, nel senso che poi negli Stati Uniti, come abbiamo visto anche il giorno tragico dell'11 settembre, insomma i vigili del fuoco sono tutti volontari, non sono preparati, hanno detto a tutti restate ai vostri posti mentre passavano gli aerei, quando invece scendendo in fila indiana magari sarebbero salvate centinaia di persone. Capisco di dire cose magari un po' impopolari, però insomma l'arrembaggio spontaneista che abbiamo visto tante volte da parte delle forze americane, insomma secondo me andrebbe più regolato. In questo ho capito la logica che faceva parlare Bertolaso, cioè dice dividiamo la prima cosa che si fa, si divide, no, un'area in settori, lui in questo è bravissimo perché ha imparato la Croce Rossa internazionale, e poi ci si divide, è responsabile, insomma lì ha visto invece un grande casino, insomma è quello che abbiamo visto, diciamo qui non ci sono presidenti che tengano esattamente quando c'è stato Katrina a New Orleans, sì. Insomma lì abbiamo visto che per giorni, giorni e giorni, ecco, veniva voglia di chiamare proprio la nostra protezione civile. Sì, no, questo è vero, però fatto. devo dirti che sentire Bertolaso che prende a pesci in faccia l'ex presidente americano Clinton, ma perché si è messo a distribuire le bottiglie, meglio che andava a organizzare le cose, questo fa un po' effetto, sicuramente straniante rispetto al comportamento diplomatico che uno si aspetta. Però forse bisogna stare da Iti per capire le emotività del luogo, e poi l'annunziata è una bravissima intervistatrice, i bravi intervistatori come te e come lei fanno dire sempre all'intervistato quello che non vorrebbe dire. No, è vero, infatti secondo me nella difesa dell'intervista far dire una cosa che tu non esatto, nella difesa dell'annunziata, anche poi ieri sulla stampa e oggi qui da noi questa mattina, devo dire che c'è anche un po' un'immedesimazione del personaggio che hai intervistato e che poi ti ha portato su tutti i giornali. Vabbè, ma lasciamo perdere questo. Il Partito Democratico morirà, leggo oggi su Corriere della Sera, per questo t'ho chiamato. Come mai fai questa previsione così catastrofica? No, forse non è catastrofica, forse nasce qualcosa. Forse è meglio, forse è meglio. Non lo so, io non ci ho mai creduto e scrissi dei vari editoriali sulla stampa 3 anni fa per dire fermatevi perché è peggio di un reality. E mi sembra purtroppo che la profezia si sia realizzata. Il reality è molto più serio perché partecipa, diciamo, diversamente dalle primarie, partecipa un pubblico più ampio e c'ha più tempo per votare, mentre lì in un giorno, no, emotivamente, anche lì chi passa, firma. Io ho la sensazione che questo esperimento sia andato ormai a carte 48, che l'indomani delle regionali ci troveremo con dei consiglieri o forse dei presidenti, non lo so, eletti, ma che sicuramente non appartengono e non si riconoscono a nulla che abbia vagamente a che fare con un partito unitario, no? Perché poi poniamo che a Bologna e in Emilia Romagna si rimedia a questo pasticcio, a Venezia la società civile post Cacciari, insomma, sinceramente queste persone intorno a un tavolo a dire la stessa cosa io non ce le vedo, e allora mi domando cosa sarà del campo d'azione della sinistra in Italia. Anche nella vicenda di vedere un vuoto enorme, sinceramente, sui temi che in tutto il mondo, diciamo, la parte sinistra a cui io mi sento diciamo di appartenere fin da ragazzina, diciamo, dà una risposta, no? Qui poi se hai un problema di lavoro, ma chi scrivi a Gabibbo? Che poi questa è la realtà. Anche nella vicenda del bono, devo dire, io lo sostengo da giorni, qui è entrata in campo un'altra cosa, che è questo moralismo assurdo, come tu dici oggi, del Partito Democratico. Perché poi un del bono, se fosse cresciuto, io non lo conosco, ma se fosse cresciuto alla scuola di partito, di qualunque partito, dall'MSI a Rifondazione, a 30 anni in un partito, se hai dei comportamenti molto atipici o se sei uno... Non ti fanno fare il sindaco, dico. Ma no, ti avvertono, ti dicono, guarda, se vuoi veramente crescere fai un'altra cosa, oppure ti tengono magari appunto lateralmente come esperto. Tante volte la selezione della classe dirigente è passata anche attraverso questo, però io mi rifiuto di pensare che Craxi avrebbe preso altre decisioni se anziché avere una fidanzata ce n'aveva un'altra. Io credo poi che bisogna giudicare sui fatti. Se Del Bono è stato un bravo sindaco, deve restare, e poi credo che siano 7-8 mila euro tutti danno complessivo che potrebbe avere fatto, insomma, mi sembra una cosa ridicola, anche perché il suo da provare, poi da provare non è proprio una persona, diciamo, i puntini, ma insomma, non è che chi lo accusa non è proprio un santo, va. Lasciamola così. Un'ultima cosa, tu voterai mai per il partito di tuo marito, per il nuovo partito fondato da tuo marito? Non lo so, perché non so neanche se si presenta alle regionali. Ma come non si presenta? Da qualche parte si presenterà? No, forse alle regionali non lo so. Non è detto, sinceramente non è detto. Quindi mi hai fatto una domanda veramente imbarazzante. Bisogna girarla a lui, bisogna che inviti lui una di queste sere. Io lo voterò nel Lazio e non so. Nel Lazio si presenta, no? Nel Lazio si presenta. Non lo so. Non è sicuro. Non lo sa neanche lui. Se si dovesse presentare, metti da solo con un candidato, voteresti la Bonino oppure un candidato del partito di tuo marito? Dipende dal candidato, perché se il candidato fosse Linda Lanzillotta, che è una persona che ha una grande esperienza, è stato assessore a Roma per tanti anni, sinceramente voterei per Linda, perché voterei la persona con più esperienza delle tre. Però sai che non ho ancora esaminato bene, perché poi nel Lazio servono una strada, che è la Pontina, una ferrovia, che è la Roma Viterbo. Invece si parla di aborto ogni tanto. Purtroppo sì, si parla degli anni 70. Pare oggi, leggo da qualche parte, che la Bonino, ci sono dei sondaggi riservati, abbia 4 punti di vantaggio nei confronti della Polverini, incredibile, tu ci credi a questa cosa? Guarda, ci credo, sai perché? Oggi se dovessi scommettere, scommetterei su Emma, perché quando si parte con le crociate, ai ai ai, chi parte con la crociata secondo me perde, perché il mondo è sempre molto più avanti dei crociati, dai tempi degli anni. La crociata chi sarebbe questa? La Polverini? L'ho imparato da ragazzina, quando Fanfani, ti ricordi, tutto quel mondo lì si muoveva contro i radicali e Pannella da solo li stroncava, perché gli italiani sono molto più avanti, per quello mi dà fastidio il moralismo nei confronti di tutti, prima fra tutti Berlusconi, ma mi dà fastidio nei confronti di Cracchi, mi dà fastidio, non penso che un politico vada giudicato per quello che fa, diciamo, di notte. Vabbè, che film vai a vedere? Vado a vedere Baciami Ancora. Baciami Ancora, e ti volevo far dire che è difficile che voterai per il partito di tuo marito, non ce l'ho fatta, vabbè, sarà per la prossima volta. È difficile, perché è un... Troppo moderato? Troppo moderato. L'ho detto io, vedi, mi immedesimo, troppo moderato. Grazie, buona serata. Ciao. Eccoci, 20:18, 800 24 00 24. Per chiamarci in diretta, ascoltatori, Oreste da Chieti, poi Silvio da Taranto, Fra, insomma tutti gli altri. Oreste, pronto? Sì, buonasera. Io volevo fargli complimenti per il suo libro. E poi volevo chiederle cosa pensa delle dichiarazioni di Casini, che tempo fa però disse che lui andava o con il PD o con il PDL o da solo, a seconda diciamo della convenienza. Ma non è proprio detto della convenienza, insomma, adesso non esageriamo, Oreste, insomma. Cosa penso io? Penso che ognuno in politica fa il suo gioco. In questo momento l'UDC si allea dove, in alcuni casi dove pensa di vincere, in altri dove gradisce di più il candidato. Cerca di avere un ruolo fondamentale, insomma, è quello che cerca di fare Casini da un po' di anni. Insomma, non mi sembra niente di particolarmente nuovo in realtà nella politica dell'UDC di questi ultimi mesi. La ringrazio. Saro da Messina. Sì, buonasera Cruciani. Dica. È un piacere parlare con lei, croce delizia. Saro, abbassi la radio, la spenga, perché altrimenti abbiamo un ritorno, grazie. Fatto, dica. È già fatto, sì. Dicevo, sono un vostro ascoltatore, prima seguivo qualche altra trasmissione, poi sai, i tagli, le forbici improvvise alle opinioni del radioascoltatore mi davano un po' di fastidio. Dai, svolazzata questa polemica. Saro, però parliamo di cose concrete, sì, di cosa volevo parlare? Volevo dirle, siccome ho ascoltato l'intervento della Barbara Parombelle, se mi permette dire qualcosa sul PD, solamente una battuta e poi le dico quello su Sgarbi. Semplicemente che secondo me, a mio modo di vedere, il PD non è affatto morto, secondo me deve ritrovare la sua vera identità, che è un'identità, guardi, tutto sommato la possiamo secondo me dire di sinistra, che sia cattolica o sia diciamo laica, ma deve ricollocarsi su quel versante. Che significa identità di sinistra, mi scusi? Identità di sinistra significa che deve di nuovo riuscire a coltivare ed interpretare i bisogni della gente, del popolo, in una maniera diversa di come diciamo apparentemente secondo me fa Berlusconi, il quale insomma, con lo studio di marketing che si ritrova ci riesce benissimo, ma cioè lei vorrebbe un Partito Democratico più popolare, diciamo. Sì, che parli dei bisogni reali delle persone, di lavoro, eccetera, e non di gossip. Sì, sicuramente sì, non parli di gossip, ma il gossip diciamo è stata una forzatura, non è che sia stato il Partito Democratico. Poi se mi permette una battutina, una frecciatina, c'è gente nel PD che farebbe bene, ma se lo dico senza nessuna punta diciamo di cattiveria, ad andare direttamente con il partito di Berlusconi, non c'è niente di male. Per esempio? Io lo dico tranquillamente, tanto è l'opinione anonima di un cittadino, gente come Massimo D'Alema o Illa Torre. Ma lei ce l'ha con D'Alema e la Torre? Ma non è che ce l'ho con perché loro. Fanno il gioco di Berlusconi. Non li reputo, sì, diciamo volgarmente, poi è come dice lei, però non li reputo esattamente diciamo interpreti dei valori di un grande partito che comunque ha una tradizione che lei benissimo e meglio di me conosce. Va bene Saro, grazie. Matteo da Modena, buonasera. Sì, buonasera, grazie. Senti, io volevo dire che lei secondo me rappresenta proprio l'immagine dell'informazione spazzatura che c'è in questo paese. Oh, benissimo Matteo, cominciamo bene. Mi dica perché, tranquillamente, l'ascolto. No, perché lei, cioè, si è convinto che la sua sia una radio libera, niente, ogni suo commento è sfondatamente favorevole al centro-destra. Sì. Ma in una maniera proprio, cioè, anche smaccata, proprio clamorosa. È una cosa proprio anche quasi fastidiosa. Fastidiosa, cioè, infatti lei è talmente infastidito che chiama al telefono, no? Lei mi sembra la versione di Emilio Federa di un po'. Oh, ma come è una cosa originale questa qua, Matteo? Com'è che non ci abbiamo pensato? Non ci ha pensato nessuno prima. Ma è mai possibile sentire un intervento come quello di prima? Sì. Dell'ospite che lei ha invitato, sì. Sentirsi dire l'organizzazione italiana è invidiata in tutto il mondo, ma lei si rende conto di quello che state dicendo? Stava facendo un discorso, peraltro io non ero d'accordo su questo, in cui difendeva Bertolaso. Se lei ha qualcosa da dire, dica la sua su Bertolaso, senza... Che cosa vuole dire, Matteo? Io non stavo difendendo Bertolaso, sono 3 giorni che attacco Bertolaso. Matteo, di che sta parlando? Da 3 giorni che attacchiamo Bertolaso, di cosa sta parlando? Di che dice? Che cosa ha capito? Andate in un paese dove ci sono 100.000 morti, non ce ne sono 100 come all'Aquila, e grazie alle vostre informazioni, sì. Le informazioni giuste sono arrivate solo da anno zero, sì. O grazie a Stessa la Notizia, che sì. Davano spazio alle persone di quella casa, non l'hanno avuto. Sì. Ma che c'entra Stessa la Notizia, anno zero? Matteo, ma di cosa sta parlando? Sono 3 giorni che ce la prendiamo, tra virgolette, a modo nostro con Bertolaso, ma di cosa parla? Di cosa parla? Ascolti meglio prima di criticare, secondo prima di parlare di informazione spazzatura, non dica stupidaggini. Porta a porta, Emilio Fede, quel giornalismo spazzatura, la gente era tutta contenta che il giorno dopo avrebbe avuto le case. Matteo, quindi, senta, perché non si fa una bella camomilla, si prende un tranquillante, poi magari ci richiama domani, che dice? Io sempre sono un operaio, non faccio parte della casa. Ma per me lei potrebbe fare pure l'imprenditore, non me ne frega niente, sono 3 giorni che diciamo che secondo noi Bertolaso ha sbagliato, e invece lei ha capito esattamente il contrario. Io sono contento di pagare canone Rai perché diamo spazio a trasmissioni come hanno te. Vabbè, d'accordo. La ringrazio, Matteo, arrivederci. Mi raccomando, tranquillanti a go-go. Silvio da Taranto, buonasera. Salve Cruciani, buonasera. Non ho parole per l'intervento precedente di Matteo di Modena. Vabbè, ma lasciamo perdere, ognuno può dire quello che vuole, ma insomma basta che non è in preda al delirio, insomma, in cui siamo in preda. Fanno troppi festival dell'unità, probabilmente. Ma no, ma non c'entra niente anche lì, festival dell'unità, Silvio, anche lei esagera, non c'entra nulla. È proprio una cosa sconclusionata. Cioè, uno può anche andare a tutti i festival dei partiti, ma insomma basta fare un ragionamento che abbia un minimo di senso. Io la camomilla l'ho presa, la prendo da parecchio tempo qui a Taranto. Le spiego un arcano per quanto riguarda come si svolgono le elezioni regionali qui. Praticamente è prassi che di 5 anni in 5 anni il candidato della regione debba essere una volta barese e una volta leccese. Difatti, quando c'è il barese governatore, il vicepresidente è leccese, viceversa quando c'è l'altro partito. Allora, la battaglia contro Vendola, che è una battaglia vergognosa da ambo i fronti, è una battaglia perché Vendola, se vincesse, vincerà sicuramente, è un barese che governerebbe 10 anni. Io chiamo per la Poli Bortone perché quando l'ho sentito ascoltare... Però mi scusi Silvio, adesso noi per carità ci stiamo concentrando da qualche giorno sulle elezioni in Puglia, però mi faccia capire bene questa cosa, Vendola è barese? Sì, Vendola di Terlizzi, una cittadina in provincia di Bari. Perché lei ci sta facendo questa differenza, diciamo, provinciale tra i candidati? È importante? Le spiego. Perché la guerra politica, amministrativa, di potere, sì, nella gestione della regione, praticamente è come se ci fosse un tacito compromesso. 5 anni a un territorio e 5 anni all'altro territorio. Non è che ci sia solo il presidente, poi ci sono gli assessori, eccetera. Però il presidente, ma la ripartizione viene sempre in quell'ambito. Difatti il vicepresidente Frisullo, che poi si è dimesso per via dello scandalo della D'Azario e di Tarantini, era leccese. No? Allora Vendola e barese, il candidato potente leccese che potrebbe sostituire Vendola sarebbe D'Alema, ma D'Alema non si può permettere di fare il presidente della regione Puglia, per cui ha mandato avanti i suoi candidati. Se lei guarda, Rocco Parese è un leccese, sì. La Poli Bortone è leccese, Mantovano, che si cercava di portare avanti, è leccese. E dunque? E quindi cioè si cerca di fare un fronte perché il governatore, sia che vinca la sinistra o che vinca la destra, questa volta debba essere Leccese. Dunque, la sua previsione qual è? La mia, no, guarda, io sono di estrema destra, però ho votato alle primarie Vendola e voterò Vendola, e col voto disgiunto voto la Lega di Cito, Giancarlo Cito Tarantino. Ma sai perché le ho telefonato? Perché la Poli Bortone è un personaggio abbastanza ambiguo. L'anno scorso le provinciali di Taranto, lei sosteneva praticamente il candidato di centrodestra. Quando c'è stato il ballottaggio, sapendo che chiaramente vinceva quello di sinistra, che, e poi la sinistra di Vendola, la sinistra che appoggiava Emiliano, sì, sì, la Poli Bortone, con l'UDC appoggiavano Emiliano ma non Silvio, volevano Vendola. Silvio, attenzione, mi sto confondendo, una grande confusione. Allora? Allora, praticamente ha votato, poi ha sostenuto il candidato di centro-sinistra al ballottaggio. Vabbè, ho capito, se, la ringrazio. Siamo qui, 20:33, 800 24 00 24, Mauro da Roma, buonasera. Buonasera, mi sente? La sento, dica. Sì, l'argomento in cui ho chiamato è la questione di missioni dei politici. Poi, se possibile, volevo parlare di come Cruciani conduce la trasmissione. Sì, dica quello che vuole, Mauro. Sì, la cosa che io con cui non riesco a darmi pace è che sento dire ormai, soprattutto a convenienza, i politici sono tutti uguali. Colgo l'occasione di questo sindaco di Bologna, di cui si sa ci saranno le dimissioni. No, ci sono state in realtà. E quindi già ci sono state, ecco, per far notare che non è così. E il mio messaggio non è che le dimissioni siano per forza una cosa positiva, Mauro, di per sé, lei dice di sì, non è che per forza. In alcuni casi lo sono, in alcuni casi non lo Dunque, sono. Dunque, secondo lei Dal Bono si doveva dimettere? Su questo sono d'accordo con lei, che le dimissioni non sono sempre cose positive, però la cosa che io osservo e vorrei sottolineare, sì, soprattutto anche di recente c'è stato la questione è stata sfiorata anche in rapporto al Presidente della Regione Lazio, alcuni ascoltatori chiamavano e dicevano che tanto i politici non si scollano mai, in Italia non si è mai dimesso nessuno. Io ricordo che D'Alema promise che se avesse perso un'elezione regionale sarebbe dimesso e l'ha fatto. Dunque, rimanendo a tempi più recenti, il Presidente della Regione Lazio si è trovato in una situazione imbarazzante, non era obbligatorio che si dimettesse, si è dimesso. Beh, insomma, certo, obbligatorio no, però era una situazione difficilmente sostenibile dal punto di vista politico. No, ma perché poi alla fine non è che ci sia un obbligo alle dimissioni. Guardi, io ho questa idea, Mauro, che quando scoppiano degli scandali, certamente noi siamo meno sensibili rispetto alla politica statunitense o inglese su alcune cose, e non c'è dubbio. Però quando è che ci si dimette? Ci si dimette quando la propria base elettorale e anche i propri alleati all'interno del partito, insomma gli altri rappresentanti di quel partito a cui si appartiene ti abbandonano, in quel caso, e quando i tuoi consensi calano, in quel caso le dimissioni sono quasi obbligate, per cui negli scandali americani c'è soprattutto questo, c'è un calo di consenso immediato da parte della persona che viene colpita dallo scandalo ed è il motivo per cui poi quella persona si dimette, per cui questo accade negli altri paesi. Io su questo avrei una visione un po' diversa, cioè ci si dimette non solo quando la tua parte ti abbandona, magari ci si dimette quando la situazione è diventata imbarazzante e insostenibile, come nel caso per l'appunto di Marrazzo, ed è il caso fare la piazza pulita rispetto a certe situazioni per poi fare un punto e riandare avanti per un lato politico, per il senso sociale, civico che dovrebbero avere. Vabbè, insomma, tutto politici. Questo ragionamento, Mauro, il suo ragionamento, cioè non è vero che tutti sono uguali, in realtà c'è qualcuno che si dimette, per dire cosa? È la premessa, perché a fronte di questi tre esempi che ho fatto, potrei citare un ex viceministro di due governi fa, che fu accusato di avere a che fare col traffico di droga, e lui si sognò di dimettersi e andò incontro a un processo, e la vicenda non è stata carina anche per l'evoluzione, ma lui si sognò di dimettersi. Noi abbiamo un importante personaggio politico in campagna, correntemente, che molto coerentemente si rifiuta anche di fare un accenno a un passo indietro, dire ma forse è il caso che io chiedesse la mia Vabbè, insomma, non tutti i politici sono uguali, questa è la fine del ragionamento. Poi? sì, ma no, non è solo quello il fatto. Ho capito, Mauro, però qui non abbiamo 20 minuti. No, sì, gli italiani dovrebbero riflettere che i politici di un lato si comportano in un modo. Ah, ecco, cioè nel centro-sinistra c'è più sensibilità, dice lei. Secondo invece, me sì. Nel centro-destra se ne fottono. Gli italiani si lamentano, l'Italia sta andando alla deriva, ci sono problemi, bla bla bla. Guardiamoci dentro la coscienza e diciamo cos'è che io partecipo a consentire e come faccio io a partecipare e consentire certe cose. L'esempio migliore di eclatante è l'attuale ministro Scajola, che non mi risulta abbia mai chiesto scusa per aver dichiarato che Enzo Biagi era un arrivo. No, veramente si dimise Scajola? No, Luciani, dica le cose correttamente. No, Scajola si dimise. La sinistra in Senato le chiese le dimissioni. Ma... il governo e la destra si opposero a queste dimissioni. Sì. Poi Scajola, costretto a livello internazionale dall'Europa, dopo. Scajola si dimise, non si dimise il giorno dopo, si dimise qualche giorno dopo perché la situazione era insostenibile. Scajola si dimise. Dunque lei ha scelto l'esempio sbagliato. In ogni caso, per carità, non è che voglio adesso contestare, cioè io lo contesto, non sono d'accordo, però il suo ragionamento è questo: i politici di centrosinistra si dimettono di più di quelli di centrodestra. Va bene, accertato questo, l'altra considerazione che voleva fare invece sulla mia condizione, sulla mia conduzione, qual è? Dunque, lei qualche tempo fa, a proposito del discorso i politici usano cocaina, droga o no, lei disse che la cosa non le interessava. No, non molto, francamente non molto. Apro parentesi sul merito, qua ha fatto una gaffe politica. Come, chi come una gaffe politica? Faccio il politico io. Ma qua abbiamo delle idee diverse. Secondo me un politico dovrebbe essere un esempio. Apro parentesi, l'argomento è stato già trattato a quei tempi. Ma lei in quella circostanza, in particolare rispondendo a diverse persone, si esprimeva, e lo fa piuttosto spesso, con chi se ne frega. Ora, lei sta su un pulpito, che le piaccia o no, ma io sono sicuro che lei lo sa di stare su un pulpito. E bene o male, chi sta su un pulpito è anche un esempio. E chi se ne frega è una brutta espressione. Sarebbe tanto bello se lei migliorasse il suo modo di comunicare, perché qua andiamo avanti allo sbraglio. Mauro, a lei non piace, il tempo adesso si è concluso. A lei non piacerà, ma io continuerò a utilizzare la parola chi se ne frega. La ringrazio. Rocco da Palermo, buonasera. Sì, buonasera. Io chiamavo per intervenire a difesa di Casini. Sì. Perché secondo me Casini in questo momento sta facendo bene a fare questa strategia. Le spiego il perché. Sì. Perché mi spieghi il perché? Il Berlusconi che quando è caduto il governo Prodi sono andati al Quirinale, avevano l'accordo che dovevano andare uniti all'elezione con i quattro partiti, mentre poi il signor Berlusconi ha deciso che o Casini si scioglieva dentro il PDL oppure era fuori, perché fino all'ultimo Casini gli ha detto ok, io vengo con Rocco, centrodestra. È roba vecchia però, Rocco. Questa è roba vecchia, però è bene ricordarlo. È all'origine poi, diciamo, della separazione tra Berlusconi e Casini. A un certo punto Berlusconi ha detto o entri e ti sciogli nel PDL oppure noi andiamo da soli. Casini ha detto no, io voglio restare col mio UDC, eccetera eccetera. Perché Casini poteva accettare un governo di larga intesa e lui a quest'ora non governasse. Vabbè. Detto questo, volevo dire anche un'altra cosa. Mi dica. Ma se Casini vuole le poltrone, non è che qualcuno in Puglia gli ha dato il veto di andare insieme con il PDL, anzi la Russa in alcune trasmissioni hanno detto allora? Ben vengano. Sì, certo. Quindi se lui vuole delle poltrone, come vogliono fare credere che Casini va solo dietro, ma tutti poltrone, le vogliono le poltrone, no? Mica solamente Casini, su. Ma dico, mi scusi, dico, voglio dire, potrebbe appoggiare il candidato Rocco Palese e prende i vari assessorati. Okay. Poi volevo dire soltanto una cosa, io sono siciliano, Berlusconi dice che è contro il trasformismo, forse qualcuno trascura che Berlusconi non sta dicendo una parola sul fatto che in Sicilia è stata votata una maggioranza ed oggi c'è anche il PD al governo insieme con parte del PDL. Mi pare strano che Berlusconi non dica niente, visto che è contro il trasformismo. Va bene, a parte che Berlusconi contro il trasformismo, adesso non ricordo una sua frase, ma in ogni caso le questioni siciliane purtroppo da qualche tempo sono molto complicate anche per lo stesso Berlusconi. La ringrazio. Rocco, Riccardo d'Arezzo, buonasera. Buonasera dottor Cruciani, complimenti. Dica. Volevo parlare della vicenda di Bertolaso. A mio avviso ritengo che il dottor Bertolaso abbia espresso una verità, che però questa non può essere, credo, espressa in questi termini, in una forma così diretta. E quello che volevo dire è fondamentalmente che secondo me è un'occasione mancata un po' per l'Italia, in quanto avremmo potuto con un lavoro di diplomazia fornire l'apporto, il lavoro del dottor Bertolaso, dell'ingegner Bertolaso agli Stati Uniti come un aiuto, magari da affiancare come vice di Clinton, e in questo modo credo anche poter poi avere un ritorno da parte dell'alleato americano. Scusi, però Riccardo, io non so come siano andate le trattative quando è scoppiato il terremoto di Haiti, non credo nemmeno che ci siano state. Lì c'è stato un intervento immediato degli Stati Uniti, con varie critiche che sono state esposte, eccetera, eccetera. Per cui non è che si è presa in considerazione l'idea che Bertolaso avesse un ruolo immediato. Lei dice bisognava fare questo. Ho capito, ma insomma non è che Bertolaso sia l'unica persona al mondo che si può occupare di queste vicende, o no? Credo che sia tra i più qualificati. Ho capito, ma insomma gli Stati Uniti hanno gente preparata da questo punto di vista. Non si può ritenere che solo Bertolaso può risolvere certe situazioni, come lei dice, Riccardo. Mi sembra una cosa veramente assurda. No, ma credo che l'Italia avrebbe potuto offrirlo, poi chiaramente, poi non lo so se è stato fatto, è solo un'ipotesi mia, ecco, tutto qua. Va bene, grazie. Francesco dalla provincia di Frosinone. Buonasera, dottor Cruciani. Senta, io volevo commentare le parole che ha detto il presidente Berlusconi riguardanti i clandestini, che mi trovo d'accordo nel senso che questi poveretti, secondo me, non trovando lavoro, poi è normale che cadano nelle mani della malavita, e perciò penso che questa volta ha detto una cosa giusta Berlusconi. Non ho capito, scusi Francesco. No, riguardante Berlusconi, che ha detto dei clandestini che è meglio che non entrino. No, Berlusconi ha detto meno immigrati clandestini, credo, non lo so se ha detto clandestini, meno criminalità, perché altrimenti piombano nelle mani della criminalità organizzata. Questo ha detto Berlusconi. Naturalmente poi la traduzione giornalistica di questo intervento di Berlusconi è stata molto semplice: meno immigrati, meno criminalità. Comunque risentiamo. La diminuzione degli extracomunitari significa anche meno forze che vanno ad ingrossare le schiere delle organizzazioni criminali. Qui parla in generale degli extracomunitari, non so se nel discorso precedente il riferimento era ai clandestini, mi immagino di sì nella mentalità di Berlusconi. Bisogna dire che c'è stata una frase molto sgradevole pronunciata di cui addirittura si è scusata la presidente dei senatori del PD Anna Finocchiaro, che ha detto ai cronisti meno premier, meno crimini, è la battuta della Finocchiaro di cui poi si è scusata con Berlusconi. È una delle battute che tra l'altro girano nei vari blog su Facebook in questo momento. Comunque le agenzie di stampa interpretano anche in questo modo, meno clandestini significa meno criminalità. Lei come la pensa, Francesco? Ha ragione Berlusconi? Per me ha ragione Berlusconi, perché io mi metto pure nei panni di questa gente, che giustamente io se sto male nel mio paese, non ho da mangiare tutto quanto, è normale che cercherei anch'io di venire in Italia. E purtroppo comunque secondo me la cosa migliore, che parlano poco i politici, è di aiutarli nell'economia dei paesi da dove vengono queste persone. Ho capito. Sì, Francesco, è una cosa di cui si parla da tantissimo tempo. Siamo qui alle 20:48, 800 24 00 24. Andiamo a Verona. Francesco, buonasera. Sì, Ramanzotti, buonasera. Come, scusi? Ramanzotti, Francesco. Ah, ok. Ok, mi riferivo sempre alla situazione di Bertolaso e sono d'accordo con tutti quelli che sono contrari a quello che ha detto Bertolaso in pubblico, ma sono contrario anche perché lo stesso giorno che ho sentito le prime notizie proprio su Radio 24, alla sera al telegiornale tedesco ho sentito che c'era una conferenza in Canada dove i maggior paesi che hanno portato aiuti a Haiti, che li porteranno anche nel futuro, erano riuniti sul decidersi come procedere. Non ho sentito niente chi ha partecipato dall'Italia, chi ci ha rappresentato questa conferenza e cosa abbiamo intenzione di fare. Allora, mentre noi facciamo polemiche, il mondo si muove per aiutare. Sarebbe ora di finire con le polemiche e darsi da fare. Dunque, lei è contro Bertolaso, diciamo, per quello che ha detto. È contro, non contro Bertolaso, contro quello che ha detto. E, cioè, non sull'opportunità che, di dirle quelle cose, nel merito. Assolutamente. E vorrei sapere cosa è stato fatto o da cosa è stato deciso in questa conferenza in Canada, dove c'era presente anche il presidente dell'Haiti, e cosa, che opinione ha rappresentato l'Italia in questa conferenza, o chi ha rappresentato anche l'Italia. Sì, Francesco, adesso questo mi pare ininfluente rispetto al discorso di Bertolaso. Lì l'annunziata dice bisogna stare a quello che dice, non a chi dice certe cose. Siccome dice la verità, Bertolaso ha ragione. Beh, insomma, qualche volta è anche importante sottolineare chi dice le cose, altrimenti non sarebbe scoppiato un caso diplomatico. L'avesse detto l'annunziata, quelle cose non avrebbero avuto lo stesso effetto, con tutto il rispetto, per carità. Sergio da Roma, velocemente, ci abbiamo verso la conclusione. Sergio, dica. Buonasera. Io sono stato stimolato un pochino dall'intervento della Palombelli. Sì. Dove ha fatto esempio di un partito come il PD, partito che sta morendo, ma forse un partito che si era creato, anche perché io ho 58 anni, si era creato tra comunisti e democristiani, un qualcosa che fa l'avversaria per un quarantennio. Sì, in alcuni casi anche alleati, comunque. Sì, però nel popolo non c'era questa unione. E poi conclude dicendo, ma il partito di mio marito, non essendoci dietro poi classe politica, ma la classe politica, anche lo stesso Rutelli, ha fatto del tutto per tagliarla. No, però mi scusi, adesso lì scherzavamo con Barbara Palombelli sul fatto che lei, sulla possibilità che lei possa votare per il partito del marito, insomma era un gioco. Rutelli ha provato ad andare prima a Chianciano con l'UDC, poi a fare un po' di movimenti, minacce. Insomma, lei adesso vuole parlare di Rutelli. Avremo modo di parlare di Rutelli e dell'API nei prossimi mesi. La ringrazio, Giovanni da Lucca. Giovanni, dica. Buonasera. Io sono un ragazzo di 27 anni e ho provato a mettere su una piccola azienda, a costruire, diciamo così, un'azienda che produce energia idroelettrica. Sì, che mi vuole dire? Volevo fare una denuncia, in quanto una denuncia. È difficilissimo oggi in Italia riuscirsi a costruire un qualcosa di questo genere. Nonostante che si dica che l'imprenditoria giovanile viene sostenuta da tutti e che bisogna... Guardi, Giovanni, io non conosco il campo, però, mi scusi, per cui non le so dare né risposte né posso fare considerazioni sul perché sia difficilissimo mettere in piedi un'azienda idroelettrica. Abbia pazienza. No, ma non difficile non da un punto di vista tecnico, da un punto di vista... Sì, ho capito, del mercato, dei sostegni, eccetera. Più che altro delle autorizzazioni, in quanto... Della? Mi scusi? Non ho capito, più che altro di che cosa? Delle autorizzazioni, della burocrazia che si incontra. Non ah, è tanto... certo, insomma, io ricordo uno slogan qualche anno fa, no? Perché poi spesso vengono fatte le leggi, ma le leggi non servono assolutamente a nulla, restano inapplicate, si fermano per mille motivi, no? Lei ricorda, no? Creare un'azienda in un giorno era un meraviglioso slogan inventato, credo, da Daniela Capezzone ai tempi del governo Prodi. Non so che fine abbia fatto quella proposta di legge, sicuramente ci sarà qualche legge che snellisce le procedure burocratiche, ma in realtà ancora è molto complicato mettere su un'azienda, no Giovanni? Esatto. In Italia si parla veramente di tutto, di tutte le cose, ma non, cioè, sono questi gli argomenti sui quali la politica si dovrebbe soffermare oggi. No, ma lei ha perfettamente ragione, Giovanni. Ripeto, poi spesso si annunciano dei provvedimenti legislativi, quando non c'è niente da fare, non si sa che fare, si fanno delle leggi che la maggior parte delle volte sono totalmente inutili, perché poi bisogna applicarle, si fermano, non c'è sempre bisogno di una legge, si possono risolvere le cose anche in un altro modo. Claudio da Lodi, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Piccola parentesi, per me Bertolaso ha pienamente ragione, chiuso la parentesi, sull'osservazione che ha fatto. Sì, qui c'è un consenso abbastanza ampio per Bertolaso, devo dire, tra i nostri ascoltatori. Adesso non so come sia andato il sondaggio di questa mattina, ma credo che abbia vinto nettamente Bertolaso su Hillary Clinton, se non sbaglio. No, ma pienamente su quello che ha detto ad Haiti. Chiudo la parentesi, non so se ho molto tempo. Volevo intervenire sul nucleare in Italia. Allora, o si capisce che uno Stato ha le risorse primarie, e mi riferisco all'Italia, sì, o se lo Stato non ha le risorse primarie deve dipendere dal bello e cattivo tempo dai fornitori. Quindi sul nucleare, allora, punto primo, il 30% dell'energia, della corrente che arriva in Italia viene fornita dalla Francia tramite centrali nucleari. Ma lei perché oggi vuole parlare di nucleare, Claudio? No, perché ho sentito prima un'osservazione sul nucleare. Prima ho sentito un'osservazione sul nucleare. Sì, no, ma era a proposito di Celentano, non c'entra niente. Adesso non possiamo riaprire alle 20.55, lei capisce, mancano due minuti alla fine del programma, una discussione sul nucleare in Italia. Comunque, lei è favorevole o sfavorevole? Io sono favorevole al nucleare. Lei è molto favorevole. Anche se restano ancora dei dubbi dal punto di vista della convenienza economica dei progetti, eccetera? No, ma sono favorevole perché dipende dalle risorse primarie che ha uno Stato. Perché se le risorse ci sono nello Stato, mi sta bene, ma se l'Italia deve dipendere dal gas, dalla Libia, dall'energia elettrica, dalla Francia. Capito, non è solo questione di questo, è anche, ripeto, una questione di investimenti sul nucleare, vale la pena, non vale la pena, che tempi abbiamo, le tecnologie moderne che riguardano le centrali nucleari, insomma è un discorso un po' complesso. La ringrazio. Marco da Torino, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Dica. Ah, finalmente. Lei abbiamo poco tempo però. Mi dica. Con un sorriso, lei è stato grande l'altra sera con Mastella. No, non mi pare di quell'intervista a Mastella. È stato grande, i suoi equilibrismi, voleva provocare ma non urtare la sua solidità, è stato grande. Seconda cosa, sere fa lei con Severini diceva delle ragioni per cui gli italiani votano Berlusconi, l'hanno votato per tre volte consecutive, ma la ragione è molto semplice: la maggioranza degli italiani è composta da sciocchi e da ignoranti. Vabbè Marco, lei liquida così gli elettori di Berlusconi, insomma, ci mancava solo questa. Marco, dovrei intavolare con lei una polemica infinita su queste cose qui, ma non ho il tempo né forse la voglia questa sera. Comunque, concluda. Sono degli sciocchi. Aveva perfettamente sciocchi. Ragione. Chi aveva ultimissima ragione? Vanna Marchi. Che c'entra Vanna Marchi adesso? Siamo passati. Era per fare un esempio, da no? Berlusconi era una grande venditrice. Dunque, Berlusconi come Vanna Marchi? Esattamente. Benissimo, finiamo in bellezza. La ringrazio. Alberto da Bologna, 30 secondi. Sì, buonasera. Torno sulla questione del sindaco di Bologna. Ho sentito parlare stasera con la Palombelli, ma anche ieri, di atteggiamento moralistico che sembrerebbe condizionare questa vicenda. No? E francamente, a me pare che il sindaco di Bologna in questo momento sia indagato dalla procura per truffa, peculato, per aver chiesto e fatto pressioni in cambio. Sì, certo. Ecco. C'è un'inchiesta che riguarda, lei dice, non è questione di moralismo, di amanti, di storie torbide, eccetera, ma è questione di denaro pubblico. Guardi, io sono convinto invece di no, che non sia questione di denaro pubblico, però ne parliamo volentieri domani, Alberto, perché per questa sera abbiamo concluso. Ci sentiamo domani 18:30. Ciao.